meta, non le mancano mai, dai. Avanti Luca, un abbraccio a tutti. Riprendete la guida, io sto già chiudendo, mi sono appena acceso giusto per, ho visto che c'era questa portante qua, che qua è quasi 9.40, saluto a tutti e spengo, ciao ciao. Sì, ciao Luca. Ieri notte ho acceso Giulio, quello CB Talk, c'erano due ragazze di Olmedo che stavano parlando, non sono entrato perché ero mezzo assonnato, non volevo, era un bel tardi, erano le 11:30, e infatti ho detto che cazzo ce ne sono di donne in zona che parlano in CB, e stavo parlando con questo, erano tutti e due di cosa, di Olmedo, vicina, perché la cosa, la posizione era attaccata. No, io non lo so, non è che io sono entrato, era così, di notte ero stanco, ho detto, me ne vado a dormire, ho acceso il telefonino, ho detto, se c'è qualcuno a Cibito, che ho notato c'erano due tippe di Olmedo, ma erano abbastanza preparate come termini, diciamo, di CB, non erano di primo appello. No, mi ricordi i nomi, Robè? Cacchio, uno mi sembra o Ilaria o Rita, qualcosa del genere, e poi ce n'era uno l'altro giorno, lo stesso di Alghero, che lo stesso stava modulato. Non so, non le conosco, dai. Avanti Giulio, io sto cucinando, quindi vi lascio per un po', Ciao, Franco. Ehi, fregatene, purtroppo. Ce l'abbiamo, ce la teniamo, dai. Ah, sì, certo. Ma è fastidioso, prima col tac tac tac non ti faceva male le orecchie, ma con questo fisco proprio mi irritano le orecchie. Non si viene cosa che sta mancando rispetto a tutti qualche buia. Dai, vi lascio, dai, ciao. Tu lo passi comunque, fra di radio riesci a passare. Capo, credo anche tu, dai. mi viene da ridere, dai, se no. Luca dal Monte, ci sei ancora invece tu. Vabbè, dai. Se non lo vedi, ti fa più. Lasciamo anche fisso, meno, non c'è problema, poi parliamo. E coso? Gianfranco è uscito giù. Sì, Gianfranco, no, non l'ho sentito io oggi Gianfranco. Ieri, quando è che ci siamo sentiti? Ieri sera, c'eri anche tu mi pare, o sbaglio? Sì, ieri sera, sì. Adesso ho perso anche la condizione del tempo, sì, ieri era lunedì, domani, mercoledì, allora come tu che oggi era mercoledì, invece oggi è martedì. Sì, oggi è martedì, sì. Sì, allora sembra che sia finita la portante, ok. Vediamo un attimino se c'è qualcuno che vuole entrare qua sul canale 10, avanti con la buonasera. Luca, riprendi Luca. Non lo sento, il QRM adesso si è abbassato però, meno male. Allora era la portante del QRM, Robè. Santiago quasi sì, dai, è meglio così, perché sennò cacchio non se ne comprende nulla. Poco fa c'era uno Santiago 7-8, non riuscivo a sentirlo, secondo me era coso, Nicola, come si chiama il nome attivo? Lupo Grigio. Io non ho sentito per niente a Nicola. Rientro io, ieri l'ho sentito io, detto che ancora è in frequenza, L'ho sentito di sfuggita anche io, ieri era bassino, tu forse lo ascolti meglio perché sei più vicino, dice era con un portatilino o qualcosa. No, qua arriva malissimo, anche se è vicino a me linea d'aria saranno un chilometro, ma qui arriva un segnale di 1. No, qua il segnale era 7, però radio non ne ha, lo senti nel fondo, quando c'è un po' di corrente infatti non si capisce niente. Giulio, ma è il nuovo questo, cioè il K? No, è un 3 watt e mezzo, 4 watt, un Aran Midland 44, questa è la sigla sua, è Midland, Aran 44, X. Perché è diversa da quella che stai vedendo prima, non pensavo fossi ritornato al K. No, l'ho messo da parte, non mi interessa più di tanto, uso questo, è nuovo questo. No, esce bene, anche c'è anche un bel segnale. Ok, fra, va bene così. Se n'è andato, il portantista se n'è andato. Adesso sentiamo anche la mancanza di Reggio, dai, vi lascio di nuovo che sto contando roba al forno. se no ti si brucia tutto, stai attento Fra. Ok Fra, d'accordo, dai, ci sentiamo. Attento Luca Flipper. Ma no, Luca è andato via, c'era anche Luca del Monte, avanti Luca del Monte, se ci sembrati un colpo. Luca magari si è stancato, se n'è andato, dai, non c'è problema. Tattalino, ci sei? Tattalino. Ma Franco c'è ancora, Franco di sotto, ci sei? Ha chiuso poco fa, infatti l'ho salutato, forse anche lui si è stufato. Probabilmente sì, si può immaginare. Vabbè, non è un problema, non è un problema, Però non ho notato che qualcuno non sta più entrando in questo periodo. Questo fa sì che si seleziona da solo. L'importante ha detto il suo nome e cognome senza che nessuno l'abbia mai detto. Da solo se l'ha detto, l'ha fatto capire a tutti. Non lo so, io spero che sia una cosa momentanea dovuta a qualche motivo valido relativamente, che li passi, perché alla fine basta. Se non li basta la qualsiasi cosa, che se ne frega, non ci interessa più di tanto. Già siamo quattro gatti, io accendo la radio, te l'ho detto giù, solo per svagarmi dalla routine quotidiana, dallo stress quotidiano, e questi mi accendo la radio, come posso ascoltare qua, posso andare a ascoltare da altre parti, e qua almeno c'ho la possibilità di parlare. Ok, va al telefono, va. Beh Giulio, ieri ho fatto un paio di ex io, in lontananza. Ah sì, molto bene, dai. No, in questo periodo quando c'è preparazione c'era troppo rumore, non è che mi andava più di tanto, la verità. È un po' fastidioso perché la preparazione non era quella chiara, pulita, limpida. C'era un pochino di rumore, non mi dava fastidio. Anche l'ora del pranzo, oggi ho acceso dopo pranzo e c'era una buona propagazione, pulita come dici tu, pochi ma buoni, c'era la Francia, la Germania, vabbè, il Portogallo ho sentito, la Spagna tranquillamente. Sì, certo, sì, sicuramente sì, in questi giorni ripeto la propagazione c'è, ma vabbè io quando è che l'ho acceso? L'ho acceso anche quel giorno che c'era un po' di pioggia, per cui alla rumore della propagazione c'era anche la pioggia, per cui era triplicata, il rumore era triplicato, e allora non ci ho rinunciato, non accendevo nemmeno, capito? Accendevo, sentivo com'era e spegnevo subito. Capo, c'era un tedesco che arrivava qua con picchi di 9.20, 9.30, un segnalone, parlava che stava usando la Delta Loop, una direttiva. Sì, certo, quando c'è preparazione è veramente, veramente eccezionale, tante volte è fortissima, però quando c'è confusione, soprattutto quando parlano uno sull'altro, non va bene, ecco, dà fastidio, perlomeno a me mi dà fastidio. Infatti, no, erano su un canale, addirittura non era neanche sul canale centrato, era spostato di qualche kilohertz. Invece adesso non so, 75 era 70 di frequenza, quindi erano in due, non c'era altra gente, lo sentivano veramente bene, caspita. Sono rientrato io. Abusivo della Pulonello. Avanti, vabbè. Telefono, un attimo, c'è Natalì. Ciao Fra. Ah, ci sei ancora Natalì, ti abbiamo chiamato prima. Stavo telefonando, capito? Avevo una telefonata in corso e quindi non potevo rispondere, ho abbassato anche il volume. Eia, vai di nuovo giù. Giulio, ma forse si è notato Giulio. Cosa stavo dicendo? Quindi la terra da lì ti arriva fortissimo questo segnale. Fondo scala mi arriva, se te l'ho detto che mi arrivava a fondo scala. Un po' strana la situazione, perché sto cercando di fare un orientamento di cosa, per cui la posizione è verso la tua, diciamo, da te verso la ferocia, la direzione del segnale. Non dire niente qua, dai, non dire niente, già che io già lo so tutto io. No, non ho detto nome, non ho detto nessuno, io sto dicendo solo la direzione, ma può essere migliaia di persone ci possono essere di lì, però per capire, non è dalla parte mia, perché qualcuno diceva che era vicino a me, non è così. No, non è vicino a te. Comunque a me fondo scala qua. Adesso ho messo in atto un apparecchio in modo che sappia proprio il segnale giusto, e così c'ho il riferimento. Ma più forte non credo che ti arrivi più forte di, come si chiama, di Antonio. No, più forte di Antonio no, come fa a arrivare più forte di Antonio? Antonio è a due passi qua. È quello che volevo ben dire, per cui non è vicino vicino a te, è abbastanza più lontano. Sì, ma chissà cosa avrà attaccato a arrivarmi con quel segnale, capito? Io purtroppo non ho niente da attaccare qua, se no se avessi avuto qualcosa ti sarei arrivato più forte. Purtroppo non si può vedere. Adesso appunto c'è anche il problema del vicinato, quello ti potrebbe creare problemi. E infatti, non ne voglio problemi con nessuno, anzi, mi è passata la voglia pure di entrarci qua. Sto già parlando troppo, infatti ho intenzione di stare solo all'ascolto e basta, perché non mi piace, no? Quando è così no, se ne passa la voglia, amico. Vediamo se è entrato Giulio. Quando te arrivo io già, qualcosa, ho modulato, è nata lì? Non ti posso rispondere adesso, perché ho messo in atto una storia. Non c'è problema, non ti preoccupare. Vediamo se è rientrato qualcuno qua sul canale 10. Sono fuggito di tutti, c'era prima Franco, era mollato, c'era Luca Flipper, Luca Del Monte, vabbè Claudio è stato un secondino, c'era Giulio, c'era Franco Binario. Vediamo un pochettino se vuole entrare qualcuno, perché sennò io tra qualche minutino vado a mandicare, che lo stomaco sta richiamando il cibo. Io ho già fatto, purtroppo devo mangiare presto, perché c'ho da fare una cosa e quindi a chi dura devo mangiare. Vabbè, io ho già fatto, buona cena quando la farai allora. Vabbè. Non so se c'era Franco qua, mi ha salutato. Franco, ci sei? Ma stava cucinando Franco, forse si allontana, si avvicina ogni tanto. Vediamo un pochettino. Giulio, non ho capito se sta rispondendo al telefono, se si è allontanato, perché io ho risposto al telefono, è tornato al telefono, poi ho ripreso e non ce l'ha più. Vediamo Giulio o se no vediamo Franco. Vai Franco, Natalino e Xavier. Io già ci sono. Gli altri se ne saranno andati a cenare. Sì, vai qualcuno a cenare, ma qualcuno può aver risposto al telefono, qualche conversazione, qualunque cosa. Ok, non c'è Gianfranco oggi, perché normalmente la sera l'ho sentito. Sì, Gianfranco magari sarà impegnato, capito? Ma la tenda è sempre la stessa, Natalia, non hai toccato niente? No, è sempre la stessa, Gira gira me ne torno davvero e me ne vado da qui, almeno posso fare quello che voglio. Cosa vuol dire davvero? Ma sulla cosa, Felichetti? E allora, me ne rivado lì, ne ho le scatole piene di stare qua. Ah, Felichetti è già una bella zona, più tranquilla, non hai problemi di niente. Soprattutto di parcheggio, Robè. A me la macchina me l'hanno fatta un colabrodo qua, in parcheggio. Tutta graffiata, tutta, guarda, se la vedi ti metti le mani in testa. Ma tu dove stai parcheggiando, alla costruzione o più avanti? Vicino a casa, molte volte più avanti. Dove lo trovi il parcheggio? Qua non c'è mai parcheggio, Robè, ed è un macello. Ma l'hanno tutta rovinata, la macchina. Non c'aveva un graffio quando l'ho portata da campagna. Adesso purtroppo è una zona franca, poi anche mi sono pure rumeni, gentaglia. Sì, uno o due specchietti mi hanno sfasciato. Calcini. E poi ci sono embriagoni, tossici, di lì passa di tutto, la notte poi non ne parliamo. Ma siamo busy. Se c'è possibilità di migliorare, migliora Natalì. Se c'è modo di stare su, e chi ci abita su di lì? Sempre tuo fratello? Sì, tutti e due i miei fratelli abitano lì. Capito. E ho intenzione forse di andarmene torna lì, perché qua non mi piace. Non c'è nulla da fare. Lì è una bella zona, cazzo. Magari l'inverno è un po' freddino, magari per certe cose, ma basta da passi, non c'è problema. E cosa volevo dire? Ma dimmi quanti appartamenti c'erano, tre perché? E allora, tre. Tu eri al piano di sotto? Quando ero lì, sì. Però io ce l'avevo a fianco la casa mia proprio, quindi dovrò smontare l'antenna da dove e metterla vicino a casa mia, capito? Ma adesso penso a guarire un po', quando sono guarito faccio tutto quello che devo fare. Cosa volevo dire? Adesso non c'è un'altra cosa, me ne sono dimenticato, ma è già arrivata la casa. Eia, è pronto ad andare lì a abitare, no? Non c'è problema. Capito? Io stavo al piano di sotto, perché quella dove abita mio fratello, quello che abitava a Porta Torre, se ne è venuto lì. E ci abitava mia madre lì, quella era la casa di mia madre praticamente. Tu abitavi nel corso di tua mamma, già mi ricordo. Sì, infatti, abitavo al piano di sotto io. Sopra ci abitava Angelo, ci abitava sopra me, capito? Io sono a fianco adesso. Sì, ma quello volevo capire, la mobilia c'era già la tua, ce l'avevi solo spostare, quella di dove abitavi prima, o c'è già anche in quell'altro appartamento la mobilia? No, c'è già. Ah, quindi erano già tutti pronti, no? Meglio così, andata lì. Se vuoi migliorare io sarei andato, non oggi, ieri sarei andato. Quella è una bella zona, me. Tanto c'è a 2 minuti di strada da Sassari. E infatti, avevo comprato la cucina nuova pure, completa. C'è cucina, forno, frigorifero, tutti i pesi, il lavandino, me l'avevo comprata perché mi avevano l'inquilino che c'era prima, si aveva portato via il lavandino, poi non di lavavo la roba, e l'ho comprato tutta la cucina. Ah, allora, ma qua sei in affitto dove sei adesso? No, è di mia moglie questo. E tua moglie cosa dice? Non gli piace venire? Non ci... Come? Venga, no, a me non mi piace andare là su. Cioè, per non stare a cozzare con i miei fratelli, ma ognuno si sta nel suo, cosa vuoi ti dire? No, vabbè, se ci sono problemi di convivenza è una cosa, ma se si riescono a risolvere è meglio, almeno sei indipendente, di lì puoi fare i fatti che ti interessano e nessuno ti rompe le scale. E infatti, sto pensando ad andarmene lì, almeno c'ho la macchina, come esco fuori dalla porta c'ho la macchina e posso andare dove voglio. Invece qua, secondo dove la costruisci, ci tocca fare strada, a piedi. Ma tua moglie non guida? No, peccato. Vabbè, per spostarsi male sarà un po' più problematico, ma già avviso Edu, ci sono anche tra, c'è la fermata vicino, non è così? Sì, la fermata è prima del mio viottolo, figurati. Per cui che cacchio dei problemi c'è? Poi più su, se sali su c'è Riccardino, salendo ancora più avanti da te, farai 2 chilometri, dai. E almeno parlo col portatile, così non mi sente nessuno. Adesso non sta parlando perché sta studiando, il padre non vuole, capito? Già lo so, deve mettersi un po' sotto, dai. Già l'ho sentito a Sergio, era capitato tempo fa in officina, ma era simpatico, io andavo d'accordo, con Riccardino ci facevamo 2 risate e poi era molto appassionato, dai, già ritornerà. Sì, penso di sì, quando finiscono le scuole, penso che torni in estate. Eia, poi si aveva messo l'antenna, aveva sistemato un po' la stazione, no, io sono andato a casa sua, ho conosciuto la sorellina, la mamma, tutti quanti, dai, c'hanno una bella... Si dovevano spostare da lì, poi non so se si sono spostati o se ci sono ancora, ma credo che ci sia ancora, dai. Non lo so, anch'io ci sono andato una volta. Eia, vediamo un pochettino se è entrato qualcuno su canale 10, perché sennò io adesso dovrei lasciare perché vado a mangiare qualcosa. Attenzione 10, chi vuole entrare, nuda. Beh, Natale, io ti saluto, Mario, se coincide dopo, se no pazienza, ci sentiamo in un'altra situazione, dai. Mi dispiace per questo fatto della portante, perché stavamo discutendo di qualche cosa, non dico di niente di importante, però c'era già qualcuno, poi purtroppo c'è stato questo problemino, dai. Ci sentiamo alle prossime, QRT da parte mia, ciao Natalino, saluto tutti gli eventuali qua amici su canale 10, QRT da parte mia. Ciao Robe, buona cena, buon tutto. Anch'io chiudo adesso e mi guardo un po' di TV. Andiamo, cazzo. E vai, poco uomane. Tu dove sei? Sì, già è un anno che lo so. Ciao. È vero? Sì, è vero. Va bene. Ah, carino. Ma ce l'ha portato lo colfo, no? Sì, infatti. Poi mi ha telefonato un una persona, mi ha telefonato e stavo parlando al telefono, capito? Mi ha telefonato mio fratello, mi ha telefonato e voleva un'informazione. Infatti ho abbassato il volume e non sentivo nulla. No, so che gusto ci prendo a mettere la portante. Io non lo beccano, oi oi oi oi. Ehi, a tutti dimmelo. A me me ne passano di burro la gana di entrarvi. Stavo bene prima quando stavo in ascolto, non mi adiravo nulla. Ehi, stavo solo in ascolto quando ne avevo voglia, siccome non stavo bene, molte volte manco accendevo, figurati. Cosa c'è? Ehi, a te Natalia, al basso della gara, figurati a me. E io penso che mi servono soldini, E se mi servono soldini mi vendo tutto. Poi magari mi ricomprerò tutto, più in là. Ne assenterò per un po', sicuramente. Tanto, portante c'era. Ehi, se non ammago, bizzigheggio, adesso mi sta rompendo i coglioni, Qualche sera, adesso bisogna che mi metta il baracchino in macchina. Qualche sera, io lo so, l'altro giorno che lo sto promettendo, ma fine che lo faccio. Ti bizzigheggio, te lo sto dicendo qua, se ti bizzico sono cazzi tuoi veramente. Adesso mi hai rotto i coglioni. Non me ne affutti un cazzo chi c'è in frequenza, mi hai rotto il cazzo. Se ti trovo, ti smarro in due. Ma che ti comprometti, lascia perdere Antu, che ti comprometti. Da domani si cambia sistema, da domani. E cazzo, devi intendere sempre la gente bracimenti, no? A me di compromettermi, non me la futti un bello gatto, scusando che c'è in frequenza. Se ti trovo ti voto la faccia così in manna, basta mettere portante. La sera è deciso. Ti bizzigheggio, non ti preoccupare. Da domani si cambia sistema. Cazzo, devi intendere sempre il ghiaccio. Ma pure voi, cazzo, va a vedere la macchina, va a vedere tutto. Mettete c'era un cazzo di baracchino, andate, lo trovate, mi dite chi è. Non c'è bisogno, cazzo. Non c'è bisogno. Mi dite solo chi è. Tale punto. Io prendo quel cazzo di bicicletta, sto scendendo, rifaccio una faccia. Allora faccio i coglioni girati stasera, me. Lo sai Natalia, Stefano, a Olbia, un fumo gli ha fatto un danno, tutto le radio gli ha bruciato, televisore, modem, computer, stamattina gli ha chiamato, però tipo 5.000 euro di danno gli ha fatto. Dai che vado a mangiare che sono in casa di un niente stasera, va. Cazzo, te la metto la macchina, mettete il baracchino in macchina, trovatemelo, mi tanto, sta lungo, io sto scendendo di barro una faccia, sto scendendo di spacco la faccia, punto. E cosa fai quando io sono da solo, per esempio, come faccio? Se guido io chi lo cerca? Bisogna essere in due. Trovatemi il punto, se no lo trovo io il punto, domani sera cambio sistema, domani sera, se no lo trovo io il punto, ti dico che secondo chi è, non temo a picchiarlo, lo massacro cazzo! Non ti arrabbiando, a futtidini, tanto non hai visto, che gusto ci provano, boh, a mettere la portante, ma io non mi so. A me dalle incazzature all'ospedale sono finito, dalle incazzature. Lascia perdere, non ti parlo sangumaro, ma i caienti, che non ne vale la pena. Fermano servito in un piatto d'argento, ti ricordo una zussa, una zussa che manco quattro accuse. Stasera sono demoniato, stasera. Ora basta, mi devo fare stasera perché ti cerco, dove cazzo sei? Devo fare stasera, perché ti cerco, vedo per Gesù Cristo che cazzo ti faccio la faccia così, a me non mi ha fatto un cazzo andare in galera, brutto miserabile, dove cazzo sei? Dai che scendo a mangiare che faccio l'infilo pireno stasera. E ok, intanto io mi sto, adesso mi curico e mi guardo la televisione. Ciao Antu, ciao Luca, dai, quello ti per me. E allora, a dopo Antu, ciao Natali, ciao ciao. Antonio, ci sei? Andiamo bene, andiamo! Aspetta, ci stiamo fra un po'. attento Luca, ci sei? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Sono i zombie. Ora, attenzione 10.